辅音群 spugna spugna breve breve lacrime lacrime magro magro strano strano drago drago stranamente stranamente estremamente estremamente finestra finestra straniero straniero astratto astrato sinistra sinistra sdraia sdraia strano strano schiavo schiavo bravo bravo treno treno sgridare sgridare prugna prugna brutto brutto ingresso ingresso frutto frutto smalto smalto scala scala finestra finestra vestito vestito studente studente stanza stanza sdraia sdraia 练习 snello snello statuto statuto strano strano stile stile crema crema grido grido è un gruppo di quattro stranieri. Mio fratello ha comprato una giacca grigia. Lo spirito è veramente pronto, ma la carne è inferma. 谚语. Proverbi. O mangiare questa minestra o saltare questa finestra. Chi troppo vuole nulla stringe.